Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani e man mano che cadendo passa da un piano all'altro. Il tizio, per farsi coraggio, si ripete: fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Ma voi siete atterrati sul cosmo di un'altra radio. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. We'll be right back. Bella regà, sono atterrato. DJ Camp è arrivato. Questo è il mio primo podcast Penartra Radio Roma. Drum and Hash by DJ Camp. Siamo partiti con la Blackcore di Neapolis, da sud-est di Londra. Album Epic Anomaly, brano omonimo, Epic Anomaly. Per ulteriori informazioni potete contattarli su MySpace. E se volete ascoltarli, solo su un'altra radio Roma, Roma, Roma, Roma. Adesso andatevene tutti. Sparite, non mi rompete più i coglioni perché. Voglio ascoltare un'altra radio. No, non voglio fare la cosa. Assaggi. Yeah. Peace. Dopo i Nebulis vi ho sparato un pezzo di Psy, Kill a Dog, Pura Draven Vince. Unico brano preso dal sito MacIdol, tutti gli altri sono già merdo. E subito dopo la prima traccia del live set Happy Loops by Kenny. Tutto questo solo ed esclusivamente su un'altra radio. We'll be right back. Orion, Future Ace, prima traccia dell'album. Mamma mia, come si legge questo? No, lo sai che c'è? Non è spontaneo. Vabbè, adesso fallo spontaneo. Lo faccio spontaneo. 1, 2, 3, DJ Kempo. Orion, Future Ace, prima traccia dell'album. Mamma mia, ma come si dice questo? Comunque è chiaro, ma si dice così. La Drumaz da Bass, un progetto che nasce nel 2000 a Parigi, ora è a Tolosa, influenzati dalla musica di Panacea, Afrodite e Scorn. Altro bel pezzo a breakcore. Non si dorme su un'altra radio. Everything you need is already yours, and everything you want to achieve is already done, but you don't know it yet. Orchestra dall'album The Statement. Sono esclusivamente, forse, può darci, chissà, Non lo so. Su un'altra radio. primo lavoro per i Jastron Breckners, Isteria, dall'album Our First Job, datato 6 luglio 2009. Ottimo il lavoro di questi ragazzi torinesi che speriamo tornino presto con l'Aerodrome del Bates. Li aspettiamo. E adesso ecco a voi il Ragamuffin Drum and Bass del gruppo valenziano degli Orzala. Il brano è Sobrille Portes e l'album è 1.0. Sempre solo sulla nostra mitica radio. Un'altra radio Roma! Un'altra radio Roma! Un'altra radio Roma! Non è vero, non è vero. È un'altra radio Roma! Tom, Tom, Oxata, Oxata, Sound System. Bingo, va! Sobre el pop es el club estacido. dalla Francia, andando sul suo MySpace, occhio che il collegamento non funziona molto bene, ci sono tantissime locandine degli eventi dove l'artista ha partecipato. Un bel Ravers. Kick Drum and Bass è la traccia. E lui si chiama... Dottor Patrouille. Dottor Patrouille. Dottor Patrouille. Dottor Patrouille. Dottor Patrouille. Siete? Su un'altra radio. Roma! Allora io. E adesso sono su un'altra radio Roma. Sono su un'altra radio Roma. Personne n'a jamais pris ce genre de risque. C'est pour ça qu'on va réussir. Krasnodar, dalla Federazione Russa, loro sono due, Mr. Rotten e Mr. Chertsov. Propongono un mix di industrial e drum and bass, influenzati dai Prodigy, Placebo, Catatonia, Slipknot e Nine Inch Nails. Loro sono i Double MBA e questa è Resurrection Pie. Su un'altra radio Roma, un'altra radio Roma, un'altra radio Roma, un'altra radio Roma. Oh, questo punto il viaggio giunge al termine. Che fatica. Vi sparo gli ultimi due pezzi. Orion con l'ombra della follia e Dottor Patwil con la profezia. Fino all'atterraggio. We'll be right back.

1, 2, 3. Vi saluta DJ Kempo e vi rimanda al prossimo podcast. A quest'estate, ciao a tutti. Un'altra radio Roma. Un'altra radio Roma. Un'altra radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Un'altra radio. Roma.